voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. If anything in this life is certain, if history's taught us anything, it says you can kill anyone. Pacchetto a vapore che faceva navetta postale da Palermo, il re d'Italia, ma dai siciliani testardamente continuato a chiamare Franceschiello, per un miscuglio di abitudine, l'uffaria e omaggio al re Borbone che aveva istituito il servizio, attraccò, spaccando il minuto, alle 2 dopo pranzo del Capodanno del 1880, nel porto di Vigata. Mentre dalle traballanti farlacche, prontamente accostate al fianco del postale, s'avventavano a terra i passeggeri di stiva, in un sobbisso di vociare, saluti, pianti, ceste di frutta, sacchi di patate, carusi, panieri di pane, mazzi di galline e pietre di sale, da una più dignitosa ma peggio traballante biscaglina rigida principiarono a scendere quattro passeggeri di gabina, debitamente riveriti dal capitano Cumella, orologio alla mano a significare che lui e la sua nave, mare d'olio o mare d'aceto, sempre puntuali s'appresentavano. Questo era l'incipit della stagione della caccia di Andrea Camilleri. La seconda parte di questo volume di Eclettica si è aperta due brani fa con il nuovo di David van der Velde per la Secret Canadian, quindi è la seconda volta che parliamo di questa etichetta in settimana. Nuovo album che ha per titolo The Moon Station House Band e la canzone che avete ascoltato in inizio di seconda parte e di cui troverete il titolo in dettaglio all'interno della playlist di Eclettica è l'unica in questa seconda parte che rappresenta suoni nuovi, gli altri li riconoscerete. They belong to the ice of Where do these tears come from? Nightclub somewhere. Send Fredo to pick somebody up at the airport. I'm your older brother, Mike, and I was stepped over. That's the way Puck wanted it. It ain't the way I wanted it. I can handle things. I'm smart. Not like everybody says. Like dumb, I'm smart, and I want respect. Yeah. che la giornata non sarebbe stata assolutamente cosa, il commissario Salvo Montalbano se ne fece subito persuaso, non appena aprì le persiane della camera da letto. Faceva ancora notte. Per l'alba mancava perlomeno un'ora, però l'oscuro era già meno fitto, bastevole a lasciar vedere il cielo coperto da dense nuvole d'acqua e, oltre la striscia chiara della spiaggia, il mare, che pareva un cane pechinese. Dal giorno in cui un minuscolo cane di quella razza, tutto infiocchettato, dopo un furioso scaracchio spacciato per abbaiare, gli aveva dolorosamente addentato un polpaccio, Montalbano chiamava così il mare quando era agitato da folate brevi e fredde, che provocavano miriadi di piccole onde sormontate da ridicoli pennacchi di schiuma. Il suo umore s'aggravò, visto e considerato che quello che doveva fare in mattinata non era piacevole: partire per andare a un funerale. Questo era l'incipit della voce del violino di Andrea Camilleri. Oh, Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 30, volume numero 5, indice, Disharmony, Bill Callahan, Deerhoof, 65 Days of Static, Trenton Muller con Anne Trölle, LP con Cat Power, David Van Der Velde, Benji Ferry, May I Refuse, Velvet Score, Cat City, Joachim. Il film The Godfather Part 2, Gli Incipit, Il Re di Girgenti, La Scomparsa di Patò, La Stagione della Caccia, La Voce del Violino, Tutti e Quattro di Andrea Camilleri.